Stiamo esaminando i fenomeni soprannaturali di cui è disseminata la vita del nostro santo. Ecco, dopo aver parlato delle sue virtù eroiche, è vero che formano la base, che formano, diciamo, l'ossatura portante della sua santità, ora mi pare anche giusto e bello che noi ci dedichiamo ai fatti straordinari della sua vita, vero? Certo, sappiamo benissimo che non è questo che conta nella vita dei santi, questi fenomeni possono esserci o anche non esserci, ciò non ha alcuna importanza e certo non è determinante nel giudizio della Chiesa circa la santità di una persona, ciò che conta è ben altro. Ma comunque dobbiamo dire che nella vita del nostro santo lo straordinario ha abbondato vistosamente. E i suoi biografi, come abbiamo già detto prima, considerano almeno tre tipi di fenomeni soprannaturali. Primo, intuizioni e previsioni. Secondo, miracoli. Terzo, fatti mistici. E come sapete, noi abbiamo iniziato a parlare per ora del primo punto, della prima serie di fenomeni, cioè le intuizioni e le predizioni, cioè la facoltà che lui aveva di vedere in qualche modo nel destino di una persona, vale a dire di vedere quella persona inserita nel piano di Dio. E questo naturalmente, carissimi, senza alcuno sforzo di concentrazione, vero? Cioè senza trovarsi in una situazione, in un ambiente particolarmente favorevoli e in genere senza avere mai visto prima queste persone. Quindi diciamo pure qualcosa che gli veniva istintivo e di cui lui stesso non si rendeva conto e quando gliela facevano notare era il primo a stupirsi e non se ne sapeva dare una spiegazione. Quindi attenzione, se nella vita dei santi troviamo talvolta questa fenomenologia soprannaturale, non per questo dobbiamo considerare queste persone come dei mostri, vero? Come degli esseri totalmente diversi da noi, quasi di un altro mondo, quasi dei semidei, no! Nulla di tutto questo. Si tratta semplicemente di doni celesti, o meglio di carismi. Carismi del resto gratuiti, che Dio distribuisce come vuole e un po' a tutti, e che in queste persone ebbero un risalto particolare. Sappiamo che il criterio di distribuzione dei carismi è un criterio misterioso, vero? E potrebbe anche succedere talvolta che Dio favorisca delle persone che a noi sembrano indegne. Però in genere dobbiamo dire che questi carismi straordinari sono strettamente legati alla santità della persona e ne sono quasi una prova, una garanzia. Sono quindi, per così dire, delle manifestazioni visibili della santità. Beh, comunque adesso, carissimi, continuiamo la narrazione di alcuni fatti del genere, dove il curato d'Ars dimostra appunto di conoscere perfettamente la situazione delle persone che incontra, pur non avendole mai viste, e sa gettare uno sguardo preciso anche sul loro futuro. Vediamo. Primo esempio di oggi, di questa seconda parte. Ernestina Durand di Lione, giovane di 18 anni, si presentò al curato d'Ars per interrogarlo sulla sua vocazione. «Figlia mia», le disse il curato, «farete parte delle piccole suore dei poveri, ma dopo essere entrata nella comunità sarete costretta a uscirne». E la giovane risponde, «Allora, padre mio, preferisco neanche andare, se è così». «No, no, dovete entrare. E 3 giorni dopo che sarete uscita, vostra madre vi ricondurrà». Ebbene, Ernestina obbedì ciecamente al santo curato. Dopo molte insistenze, ottenne il consenso dei genitori e poté entrare presso le piccole suore dei poveri, a Lione, per incominciare il suo postolandato, con le migliori disposizioni d'animo. Ma attenti, dalla famiglia arrivarono presto lettere di rimpianto e di minaccia. nelle quali si diceva che la giovane era ancora minorenne e aveva estorto con la forza, aveva estorto con la violenza psicologica il consenso della madre. E se fosse stato necessario si sarebbe fatto appello alla giustizia per ottenere che lasciasse il convento. Infatti, passato qualche giorno, suo fratello si presentava alla superiora con un agente di polizia, obbligando la postulante a tornare sotto il tetto paterno. Ma qui attenti, succede un imprevisto che certo i genitori non avevano messo in conto. Cioè, per il grande dolore che provava, la nostra postulante, sequestrata dal convento e riportata a casa, dove si trovava come in prigione, aveva perso l'appetito e il sonno. Per cui dopo 3 giorni esatti la madre stessa disse alla figlia: «Non voglio essere la causa della tua morte, ti accompagnerò dalle tue consorelle». E rinnovando il suo consenso, benché non era ancora pienamente rassegnata, questa madre, secondo la predizione del curato, ricondusse la figlia alle piccole suore dei poveri. Ecco, mi pare che sia questo, carissimi, un episodio molto significativo, vero? Che ha molte cose da insegnarci, soprattutto ad insegnarci che non dobbiamo intralciare la vocazione religiosa dei nostri figli quando dovesse manifestarsi. E chi sono io? Che potere ho ricevuto io dal Signore per rendere mio figlio o mia figlia infelice per tutta la vita, negandogli di seguire la propria strada, quella che Dio gli ha preparato? Beh, adesso un altro episodio. Una signora aveva 3 figlie e desiderava che almeno una di esse si facesse religiosa. E attenti, la minore di nome Giuseppina, modesta e pia, sembrava proprio chiamata al chiostro, mentre non le sembrava chiamata a questa vocazione, non le sembrava predisposta la maggiore di nome Antelmina, che ai suoi occhi appariva alquanto mondana e amante dei ricevimenti, e che quindi la madre destinava senz'altro al matrimonio. E siccome questa mamma ebbe occasione di passare da Ars, ecco che mise il santo al corrente dei suoi progetti, dei suoi disegni. «Figlia mia», rispose il santo, «la vostra Giuseppina non sarà religiosa, ma sarà religiosa un'altra della vostra casa, della vostra famiglia, e lo sarà prima di quanto non pensiate». Bene, questa buona madre, dobbiamo dire, non prestò molta fede a queste parole del curato d'Ars e nel ritorno comperò un bel vestito alla maggiore, quella che secondo lei doveva sposarsi, quella mondana. Ma attenti, quando arrivò a casa e mostrò alla figlia il dono tentatore, udì questa risposta: «Mamma, questa veste non mi servirà, voglio farmi religiosa». Infatti, poco tempo dopo, Antelmina entrava nel noviziato delle suore mariste di Bellei, mentre Giuseppina, che da parte sua non aveva mai pensato seriamente al convento, si sposava a soli 17 anni. E anche qui mi pare un fatto piuttosto significativo, vero? Non siamo noi a dover decretare la vocazione dei figli? E spesso le doti umane che essi hanno non sono granché indicative, perché dobbiamo sempre tenere ben presente, carissimi, che Dio sceglie in base a un suo criterio misterioso, spesso in contrasto col criterio umano. Per cui le persone che noi riteniamo più adatte, Lui magari non li considera neppure, e viceversa. Beh, ora un altro grazioso racconto che, direi, ci mostra la maniera di Don Vianney. E lo ascoltiamo dalla stessa protagonista, che è la baronessa Lacomble. Ero vedova con 2 figli. Un giorno venne a sapere che il minore, di allora 18 anni, si era invaghito di una figliuola più giovane di lui di 3 anni, perciò 15enne. E presto ricevetti una lettera nella quale questo figlio, con tenera affettuosità, chiedeva il mio consenso al suo matrimonio, affermandosi d'altronde pienamente deciso nella sua idea. Ci fu uno scambio di lettere, ma la mia opposizione non riusciva a nulla. Essendo sola e senza alcuno che mi potesse consigliare, mi ricordai di Don Vianney, già conosciuto come uomo di straordinaria santità. E dopo ferventi preghiere intrapresi il pellegrinaggio ad Ars. Attenti come continua la baronessa Lacomble, dice: questo villaggio era molto lontano e il viaggio sarebbe stato assai penoso, ma non mi fermai a queste considerazioni. Arrivai ad Ars dopo aver viaggiato 3 giorni in diligenza e disgraziatamente non potevo fermarmi che poche ore, mentre per parlare al servo di Dio erano necessari giorni e giorni di attesa. Quando entrai nella chiesa mi accorsi tosto che dalla porta al confessionale non vi era più un posto libero, per cui mi collocai in fondo alla chiesa, dietro la pila dell'acqua santa, già rassegnata a partire senza aver potuto avvicinare il santo. In quei momenti non tolsi un attimo lo sguardo dalla cappella di San Giovanni Battista dove egli confessava e pregai con fervore. E qui attenti a colpo di scena. Quale non fu la mia meraviglia e la mia emozione quando vidi un prete dai capelli bianchi uscire dalla cappella e dirigersi verso di me? Quando mi fu vicino si fermò e inchinandosi verso di me mormorò al mio orecchio queste parole: lasciateli sposare, saranno molto felici. E ritornò subito al suo confessionale. Nessuno sapeva del mio viaggio, il curato non mi aveva mai vista e non poteva essere stato preavvisato da alcuno circa la mia visita e i miei dubbi. Dio medesimo gli aveva concesso una volta di più e per me, madre inquieta e indecisa, il dono dell'intuizione, che gli faceva leggere nelle anime per rischiararle e confortarle in mezzo ai loro dubbi e ai loro affanni. Il nostro biografo conclude: quanti avvenimenti simili, felici o infelici, furono previsti dal curato d'Ars. Beh, carissimi, mi pare che questo episodio non necessiti di alcun commento, vero? Direi che è un meraviglioso inno alla bontà e alla provvidenza di Dio, che non abbandona mai le sue creature nel dubbio e nell'angoscia, ma le soccorre talvolta anche con mezzi straordinari se ricorrono a lui con vera fiducia. E spesso si serve proprio dei suoi santi per consigliare i dubbiosi. Facciamo un piccolo stacco, poi continueremo e concluderemo la serata. Ecco, un altro fatto potrebbe essere questo. Nel marzo del 56, Don Vianney, vedendo per la prima volta un sacerdote professore in un collegio, gli domandò subito: voi venite per il tal giovane che è ammalato, vero? E fece il nome del giovane in questione. Ebbene, continuò, scrivete da parte mia ai suoi parenti che non morrà di questa malattia, che era il tifo. E difatti, pochi giorni dopo, l'allievo era guarito. Adesso, attenti, un certo Sebastiano Germain, che era nipote di Maria Filia, che noi conosciamo bene per essere una delle due maestre della Providence, durante la sua fanciullezza aveva ottenuto di servir messa al curato d'Ars. Sposatosi, aveva avuto 3 figli maschi, ed era desolato di non avere una figlia femmina. Verso la metà del luglio 59, quindi a pochi giorni prima della morte del santo curato, andò a trovare Don Vianney e lo incontrò nella piazza con in mano varie corone del rosario. Bene, senza dargli il tempo di dire qual era lo scopo della sua visita, il curato gli consegnò 4 corone dicendo: prendine una per ciascuno dei tuoi figli. Ma signor curato, io non ho che 3 figli, 3 fanciulli maschi. Risposta: ebbene, l'ultima sarà per tua figlia. E difatti l'anno seguente Casa Germain era in festa per la nascita di una bella bambina. È la stessa che poi, passata a nozze, fece al biografo questo grazioso racconto. E terminando diceva: «Mio padre mi ha consegnato l'umile rosario dai grani di legno e dalle catenella di ferro, che ancora conservo come preziosa reliquia». Beh, se permettete ora, carissimi, una piccola osservazione. Vedete che il carisma del curato d'Ars non si limita alle vocazioni religiose, ma si estende un po' a tutti i campi dell'umano, vero? Compreso questo campo tanto delicato, tanto riservato del concepimento dei figli. Evidentemente si tratta di un dono di Dio volto proprio all'edificazione e all'incoraggiamento delle anime. Ma ora proseguiamo con un ennesimo episodio di tutt'altra natura. Quando nel marzo 66 il cardinale arcivescovo di Lione espose il progetto è preparato dietro sua istanza dall'architetto Bossan per la costruzione della Basilica della Fourvière, nacque una viva polemica tra i modernisti e i tradizionalisti, cioè fra quelli a cui piaceva questo stile moderno, nuovo e originale dell'architetto Bossan, e quelli invece che avrebbero preferito l'antica architettura romanica e gotica. Per cui il cardinale di Lione, spaventato, temendo oltretutto che non si potessero raccogliere i fondi necessari per questa impresa, non da poco, ritirò i suoi piani, né si parlò più di quest'opera. Ebbene, nell'estate 69, 3 anni dopo, il vicario generale, facendo il viaggio d'Ars a Villefranche, trovò nella vettura l'architetto Bossan e con lui parlò di quel famoso progetto, esprimendogli il suo profondo rincrescimento, perché era stato abbandonato un progetto che egli, sostenitore del moderno, reputava meraviglioso. Ebbene, attenti, l'architetto Bossan, con la calma più perfetta, gli rispose: «Quanto a me, su questa cosa sono tranquillo, perché Don Vianney, prima di morire, mi assicurò che la mia chiesa sarà un giorno costruita in rendimento di grazie». Ebbene, appena 2 anni dopo, il nuovo vescovo, nel timore di pubbliche calamità, pronunciava il voto solenne che diede inizio alla Basilica della Fourvière, dimostrando vera la profezia di Don Vianney. Ecco, vedete che qui siamo in un campo ancora diverso dai precedenti, vero? Segno che Don Vianney era capace di decifrare anche avvenimenti pubblici, oltre che fatti della vita privata, della vita personale. E ora, carissimi, un fatto, purtroppo di attualità, che riguarda la guerra. Dovete sapere che la festa di San Giovanni Battista veniva celebrata con molta solennità nella chiesa di Ars. E in genere Don Vianney, soddisfacendo a un bisogno dell'anima, cantava la messa del suo patrono all'altar maggiore. Ma attenti, il mattino del 24 giugno 59, mentre aveva inizio la sanguinosa battaglia di Solferino, rinunciando alla sua solita abitudine, celebrò invece la messa all'altare della Madonna, all'altare della Santa Vergine. Naturalmente la meraviglia del popolo fu grande, ma cessò subito quando si sparse la notizia del combattimento. E una madre gli disse: «Mio figlio è ancora vivo?» «Sì», rispose, «ma molti sono morti». Ecco, mi sembra un bel episodio anche questo, che ribadisce ancora una volta come sia determinante il ruolo della Madonna, non solo nel piano della salvezza, ma anche per risolvere in bene i nostri problemi contingenti, che però ci preoccupano tanto. E la Madonna da noi invocata rinnova la sua antica richiesta: «Figlio, non hanno più vino». Adesso un paio di faterelli, ma non troppo, prima di concludere. Nel 55, mentre si preparava a partire per la guerra di Crimea, uno dei figli della famiglia Garé, Giovanni, che era molto buono e che era molto amato dal suo parroco Don Vianney, si pregò il santo di recarsi al castello a benedirne la spada, come si usava allora. Ebbene, la famiglia intera lo aspettava nella sala. E quando giunse sulla soglia, il curato vide il giovane ufficiale prima che questi lo scorgesse e mormorò con aria di infinita pietà: «Povero giovane, una pallottola!» Sua madre dice che per il rumore che si faceva nella sala non tutti poterono intendere queste parole, che però giunsero alle orecchie della zia e anche di varie altre persone. Difatti il povero ufficiale fu colpito da una pallottola il 18 giugno e morì 3 giorni dopo. Ecco, purtroppo in questo caso il nostro santo non previde niente di buono, vero? Ma che volete, non si possono sempre fare previsioni positive. E del resto sappiamo che la morte, come dice il proverbio, non guarda in faccia a nessuno. Attenti ora a quest'altro fatto. Il 10 giugno 59 si trovava ad Ars, durante il passaggio del Santo Curato, la signora Pra di Marsiglia. Quando il santo fu davanti a questa donna, questa persona, che non aveva mai visto, improvvisamente si fermò e le disse, con un accento di particolare compassione: «Figlia mia, vi succederà una disgrazia improvvisa, fate una novena a Santa Filomena». Difatti 6 mesi più tardi la signora Pra perdeva il marito, che veniva repentinamente colpito da apoplessia fulminante, mentre si trovava alla borsa di Marsiglia. Beh, adesso, carissimi, ci sta ancora un ultimo episodio, ed è questo. Una giovane suora francescana era venuta con la superiora a passare alcuni giorni nel villaggio di Ars. Questo è un episodio umoristico, per questo che lo racconto ancora, perché sennò concluderemmo un po' con le disgrazie. Bene, prima che partissero, il curato le incontrò e stranamente diede loro 3 monete da un franco, dicendo: «Prendete, ne avrete bisogno». «Ma signor curato, abbiamo abbastanza denaro per pagare il viaggio, per pagare la vettura». «Prendete ugualmente». Quale non fu la sorpresa delle due suore quando, arrivate a Villefranche e sul punto di saldare i conti, si accorsero di aver perduto il portamonete contenente esattamente i 3 franchi necessari per pagare il viaggio. Fortunatamente Don Vianney ci aveva pensato lui a tempo. Vedete che quest'uomo non vedeva solo le grandi cose della vita, ma anche le piccole cose, vero? Appunto perché Dio, attraverso di lui, voleva dimostrarci la sua sollecitudine anche nelle piccole cose quotidiane, nei problemi di tutti i giorni. Quel Dio che provvede agli uccelli come può dimenticarsi di noi? Ma dice Gesù: «Quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra», Luca 18:8. Ed è la puntata che dà inizio alla Santa Quaresima. Ecco, fino a questo momento i nostri ascoltatori sono spaccati in due. La grande maggioranza è già entrata nella Quaresima, mentre gli ascoltatori qui della Diocesi di Milano sono ancora nel Carnevale, però in attesa presto di iniziare anche loro il cammino quaresimale, precisamente domenica. Ecco, vogliamo tutti quanti sentirci uniti nella preghiera, pensando che qui nella nostra cappella c'è presente l'Eucaristia, Gesù Eucaristia, che vogliamo subito salutare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salutiamo la Madonna, a lei vogliamo affidare questa serata e anche tutta la Quaresima, perché ci aiuti a viverla bene, che sia veramente un tempo di grazia, un tempo favorevole per tutti noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Invochiamo anche San Giuseppe, che è veramente un patriarca. Mi pare un titolo corretto anche dal punto di vista biblico. O glorioso patriarca San Giuseppe, che hai avuto l'onore di essere sposo della Vergine Maria e di assistere e proteggere come padre affettuoso lo stesso Figlio di Dio sceso sulla terra, prega il Dio per noi. Donaci le tue virtù, la pazienza, la mitezza, l'umiltà, la fede, l'amore vero. Guidaci in ogni passo e difendici da ogni pericolo. Sostienici nella lotta quotidiana contro lo spirito maligno, affinché un giorno noi possiamo vederti e contemplarti e godere con te la visione beatifica di Dio. Amen. Ecco, adesso vi annuncio, carissimi, che dopo le tre letture del rito romano, il Vangelo corrisponde sia nel rito romano come nel rito ambrosiano, sono le tentazioni secondo il Vangelo di San Matteo, le tre tentazioni di Gesù all'inizio della sua vita pubblica. Purtroppo in Quaresima c'è sempre questa discordanza di letture, di liturgia della parola fra ambrosiano e romano. Ecco, per cui adesso leggo le tre letture di rito romano. Ecco, prima lettura dal libro della Genesi. Il peccato dell'uomo. Siamo al capitolo secondo, versetti 7-9, capitolo terzo, i primi 7 versetti. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di nessun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne dovete mangiare e non lo dovete neppure toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Parola di Dio. Ecco, il salmo che segue questa prima lettura è il salmo miserere, il salmo penitenziale per eccellenza, che penso che sia proprio il salmo più adatto per il tempo della Quaresima. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Ora ascoltiamo la seconda lettura, che è tratta dalla lettera ai Romani, capitolo 5, dal versetto 12 al versetto 19. Al peccato segue la grazia. Ecco, il Signore salva il mondo con la sua grazia, col suo amore. E il dono di grazia è superiore al peccato. Ecco, fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Abramo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di quel solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo. Il giudizio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Parola di Dio. Ecco, lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Ecco, adesso, prima di ascoltare Sua Eccellenza, noi ascolteremo con attenzione, direi con vero spirito di orazione, questo brano evangelico delle tre tentazioni di Cristo. Siamo nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, i primi 11 versetti. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, angeli gli si accostarono e lo servivano. Parola del Signore. Una breve meditazione sulla liturgia della parola, in modo particolare sul brano evangelico che, come ho detto, vale sia per il rito romano come per il rito ambrosiano. Ecco, però vorrei farvi notare che mi pare molto bella e molto notevole l'idea, l'intenzione della liturgia romana di mettere a confronto le tentazioni di Cristo con la tentazione dei progenitori. Ecco, all'inizio della storia la prima coppia è stata sottoposta a una prova, una prova che purtroppo non seppe superare. Ma anche all'inizio della nuova storia dell'umanità, cioè all'inizio della vita pubblica di Gesù, egli, nuovo Adamo, è stato sottoposto a una prova. Cioè Dio ha permesso che a Cristo, esattamente come era successo ai progenitori, si avvicinasse il demonio per tentare ancora una volta di deviare il progetto di Dio, il disegno di Dio. E quindi per tentare di ottenere una nuova vittoria che questa volta avrebbe compromesso definitivamente la salvezza dell'umanità, che da quel momento sarebbe stata sua e in modo irreversibile. Ma il demonio certo non calcolava chi aveva davanti, dato che in questo caso aveva davanti non solo un semplice uomo, vero, sia pure perfetto, integro come i progenitori, ma aveva davanti niente meno che il Figlio di Dio incarnato, che era venuto nel mondo apposta per sconfiggerlo e per strappargli la preda di mano. E mi pare bello, carissimi, pensare che anche Gesù si sia sottoposto alla tentazione. Certo, in lui non c'era pericolo di perdere, di cedere, vero? Come purtroppo succede a noi, no. Però il fatto stesso di aver permesso al demonio di avvicinarsi a lui, questo, io penso, ci dà molto conforto, molto coraggio, proprio nell'affrontare la nostra lotta quotidiana contro lo spirito maligno. Ecco, si direbbe che oggi come oggi le tentazioni per l'uomo si sono moltiplicate, vero? Anzi, si direbbe che il demonio si è specializzato proprio nell'intento di moltiplicare gli sforzi per farci cadere. Basterà, per esempio, non so, accendere la televisione anche solo per pochi minuti per avere proprio l'idea di quello che il demonio sta tentando con la collaborazione di molti suoi seguaci per possederci di nuovo e strappandoci vigliaccamente dalle mani di Dio. A parte il sesso, vero, che è una delle note dominanti del suo programma, il sesso che diventa spesso aberrazione sessuale, fino a giungere al cosiddetto amore di gruppo, no? A parte il sesso, ma direi che la sua arma preferita ed efficace è quella di presentarci la vita come qualcosa che ci appartiene e che quindi possiamo gestirci a nostro piacimento, perché in definitiva siamo noi gli arbitri della nostra felicità e della nostra realizzazione personale. È cosa più che falsa, vero? Perché noi non siamo arbitri di niente e padroni di niente. Basta un annulla per farci cadere ammalati o per farci morire. Ecco, ma direi che le tre tentazioni base di cui il demonio si serve per farci suoi sono ancora in definitiva le tre tentazioni che ha proposto a Gesù. Primo, la tentazione del materialismo. Dato che hai tanta fame, dopo questi 40 giorni di digiuno, di che questi sassi diventino pane. E Gesù dice, risponde, che sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E mi pare, carissimi, che questa risposta corrisponda in fondo a quello che Gesù dice nel discorso della montagna. Dice, non affannatevi per quello che mangerete o berrete, o per quello che indosserete. Il corpo vale più del cibo e la vita più del vestito. Piuttosto, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto, tutto il resto, vi sarà dato in aggiunta, in sovrappiù. Con Matteo 6,33. Dunque l'uomo ha bisogno di cibo materiale, sì, ma prima ancora ha bisogno di un cibo spirituale. Ecco, l'uomo non è solo un animale, una bestia, un bruto, ma è stato creato anzitutto a immagine e somiglianza di Dio. Per cui se lui cura per prima cosa lo spirito, ecco che Dio gli fornirà abbondantemente anche il sostentamento per il corpo. Perciò con questa prima tentazione il demonio cerca di far prendere a Gesù, far prendere alla vita di Gesù, al messianismo di Gesù, una piaga materialistica. Ecco, in fondo ciò che conta è di avere la pancia piena, e finché non hai la pancia piena tutto il resto risulta incomprensibile, anzi risulta una presa in giro. Questo sembra insinuare il demonio. Ma Gesù se ne guarda bene dall'ascoltare il demonio, ecco, che voleva fare di lui un messia, che unicamente soddisfa i nostri bisogni materiali. No, ma dice che con forza, ma dice in risposta al demonio che l'uomo deve curare prima, deve curare più lo spirito che il corpo, deve curare per prima cosa il suo rapporto con Dio, ascoltando la sua parola, pendendo dal suo labbro, con la certezza che Dio, se tu gli diventi amico, non ti lascerà certo mancare quanto ti abbisogna anche per il corpo e comunque per la tua vita materiale. Poi seconda tentazione, quella del successo, direi quella di diventare un leader. Se sei figlio di Dio, gettati giù da questa guglia del Duomo, da questa guglia maggiore dove io ti ho portato. Beh, forse qui il demonio voleva che Gesù si suicidasse, vero? Così avrebbe belle risolto il problema e avrebbe comodamente eliminato il rivale. Ma sembra che il suo intendimento principale fosse proprio quello di indurre Gesù a impostare tutto il suo messianismo sul successo, sul dimostrare in tutti i modi la sua potenza, anzi la sua strapotenza. E quello di volare giù dal pinnacolo più alto del Tempio sarebbe stato certo un buon inizio di questo programma, vero? Ma Gesù anche questa volta non si lascia ingannare e travolgere, e risponde ancora, notate, citando la scrittura. Sta pure scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Ecco, dunque, non dobbiamo pretendere che Dio faccia dei miracoli inutili per accreditare la nostra missione. Ma piuttosto dobbiamo metterci a servizio dell'umanità, molto umilmente, senza pretendere nessun onore, nessuna gloria umana, ma mettendoci sempre all'ultimo posto, come umili servi, con l'unico intento di renderci utili ai nostri fratelli, in base alla missione ricevuta dal Signore. Difatti Gesù dirà in seguito che il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita in riscatto per tutti. Ecco, Matteo 20:28. Infine, ultima tentazione, che poi è anche l'ultima delle tre tentazioni base, no, che, con cui vengono tentati gli uomini, è quella del potere. Ti darò tutte queste cose che ti faccio vedere, tutti i regni del mondo con la loro gloria, se prostrandoti mi adorerai. Ecco, dunque il demonio promette a Gesù il potere a condizione che egli lo adori. Capite? Questo significa che il potere che ti dà il demonio è in effetti una schiavitù, vero? Perché tu in cambio ti devi votare totalmente a lui, adorandolo come il tuo Dio. È bella pretesa, eh? Difatti Gesù dice subito, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto. E solo a questo punto, come avete notato, il diavolo lo lascia in pace e permette così agli angeli di avvicinarsi a lui per servirlo. Dunque noi, se vogliamo veramente aver ragione del demonio, dobbiamo continuamente affermare dentro di noi il primato di Dio e convincerci sempre di più che solo Dio può veramente renderci felici. Tutto quello che non viene da lui in effetti ci torna nocivo e pian piano ci avvelena il sangue. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.